Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Ci sono delle categorie commerciali che hanno la tredicesima e la quattordicesima. Adesso la quattordicesima dovrebbe arrivare anche per un po' di pensionati, vero? Questa è la novità. Sì, è una bella novità che deriva dall'incontro avvenuto tra le organizzazioni sindacali e il governo. A quel tempo appunto il tavolo era con il ministro Poletti. E diciamo che c'è stata una bella conquista da parte dei pensionati, ovvero l'allargamento della quattordicesima mensilità a un altro numero consistente di anziani e l'aumento invece sempre della quattordicesima mensilità per chi già la percepiva. Quindi da luglio nel Veneto c'è 113.000 nuovi pensionati che finora non percepivano la quattordicesima, cominceranno a percepirla, e stiamo parlando esattamente dei pensionati che hanno un reddito compreso, una pensione compresa, tra i 750 e i 1.000 euro. Ricordiamo che finora la quattordicesima veniva corrisposta ai redditi fino ai 750 euro, stiamo parlando ovviamente di redditi lordi mensili, e invece appunto adesso c'è questo allargamento fino ai 1.000 euro che va a coinvolgere, per quanto riguarda il Veneto, altri 113.000 pensionati, i quali si andranno ad aggiungere agli altri 200.000 che già percepivano la quattordicesima, che però la vedranno aumentata del 30%. Quindi chi già percepiva la quattordicesima la vedrà aumentata del 30%, chi ha redditi tra i 750 e i 1.000 euro vedrà per la prima volta appunto la quattordicesima a luglio, e questa chiaramente è una gran bella novità e di cui non possiamo far altro che essere soddisfatti. Andando nello specifico, insomma, anche per spiegare a chi riceverà questa nuova pensione cosa potrà succedere, stiamo parlando appunto, i nuovi beneficiari sono i pensionati con più di 64 anni e con un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.000 euro circa, che sono appunto i famosi 1.000 euro di cui parlavamo prima. Ricordiamo che non conta il reddito del coniuge nei beni che dovesse avere pensionato se non danno reddito, e la somma viene comunque corrisposta. Per quanto riguarda invece i 200.000 pensionati veneti, in questo caso, che già percepivano la quattordicesima e che quindi avevano dei redditi fino ai 9.800 euro circa annui, che è una volta, 1,5 volte il minimo, e andranno appunto, vedranno aumentata del 30%, quindi di una buona somma, la quattordicesima che già percepivano. Stiamo parlando di somme che possono aggirarsi tra i 330, 336 e i 655 euro. Quindi diciamo che per quanto riguarda le pensioni, ripeto, grazie ai tavoli sulla previdenza aperti, il primo tavolo è stato aperto lo scorso autunno, è stato avviato lo scorso autunno, diciamo che a luglio i pensionati con le pensioni più basse, ovviamente, certo, potranno respirare un po' di più, magari passarsi un'estate un po' più piacevole. Ma sì, con qualche gita fuori porta si può fare con questi soldi in più. Una boccata d'ossigeno, sono quei soldi che potrebbero servire ad acquistare un condizionatore con il caldo che c'è in questi giorni o cose di questo genere, insomma una cifretta che si può avere e che magari non era prevista, no? Quindi quando arrivano così un sorriso in più secondo me viene fuori. Grazie a questa segnalazione, caro Gianluca, ci ritroviamo tra qualche giorno sempre per un altro appuntamento con l'Adico di Mestre. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Ciao Gianluca. Ciao Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.